Blu Radio Veneto. I giorni della Chiesa. Eventi e incontri della Diocesi di Padova. Ben ritrovati da Mirko Cavallini Studio e di Daici in regia. Ancora un interessante appuntamento con gli eventi e gli incontri svoltisi in Diocesi di Padova. Appuntamento prestigioso di pochissimi giorni fa, quello con il Cardinale Robert Sara, che è il prefetto della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, uno dei principali collaboratori di Papa Francesco. Il Cardinale è intervenuto nell'ambito del ciclo di incontri e presentazioni di libri promosso dalla Facoltà Teologica del Triveneto e il libro che ha fatto da spunto alla sua presenza a Padova è il corposo lavoro di Don Gianandrea di Donna, uscito dopo 21 anni di lavoro, 4 prestigiosi volumi, circa 2000 pagine, una raccolta di testi, sono i Canones Penitenziari, tutte quei documenti appunto che in diverse diocesi, in diverse epoche, tra il V e il XII secolo circa, hanno di fatto regolamentato le penitenze da dare in occasione della confessione, intendendo per penitenza, come ci aveva spiegato nell'intervista Don Gianandrea di Donna, non una punizione fisica, ma il fatto che il peccatore non potesse fare per diverso tempo, anche per diversi anni, la comunione eucaristica in epoche peraltro nelle quali la comunione eucaristica non era frequente, si faceva a Pasqua in rarissime altre occasioni. Questo libro edito da Valore Italiano, sta in distribuzione già da qualche giorno, e il Cardinale Robert Sara è intervenuto proprio sul tema della penitenza nella vita della Chiesa, la prospettiva teologico-pastorale. Buon ascolto. I giorni della Chiesa. Carissimi fratelli e sorelle, convertitevi e credete al Vangelo. Queste parole del Signore ci sembra di dover ripetere oggi, nel momento in cui, chiuso il Concilio Ecumenico Vaticano II, la Chiesa, con passo più vigoroso, continua il suo cammino. Tra i gravi e urgenti problemi, infatti, che si pongono alla nostra sollecitudine pastorale, non ultimo ci sembra essere quello di richiamare ai nostri figli e ai tanti uomini religiosi del nostro tempo il significato e l'importanza del precetto divino della penitenza. A ciò siamo spinti dalla visione più ricca e approfondita della natura della Chiesa e del suo rapporto col mondo che il Concilio si è offerto. Con queste luminosissime parole il Beato Papa Paolo VI inaugurò la Costituzione Apostolica Penitemini del febbraio 1966, poco dopo la conclusione del Concilio Vaticano II, esortando la Chiesa tutta a riconoscere come, proprio per il legame che la unisce particolarmente a Cristo e al dono della sua salvezza, tutte le sue membra siano chiamate a partecipare all'opera di Cristo e a partecipare quindi anche alla sua espiazione. La Chiesa tutta, pur essendo per vocazione divina santa irreprensibile, e nelle sue membra difettibile e continuamente bisognosa di conversione, di rinnovamento, di penitenza. Una penitenza che deve essere effettuata non solo interiormente e individualmente, ma anche esteriormente e socialmente. Ho accolto volentieri la richiesta che mi è stata rivolta di offrire questa Lectio Magistralis sulla penitenza nella vita della Chiesa, qui presso la sede della vostra prestigiosa facoltà teologica del Triveneto in Padova. L'occasione e la pubblicazione di Canones Penitenciales, autore il reverendo professor Giandandrea Di Donà, docente di liturgia presso questa facoltà e liturgia bizantina presso il Pontificio Istituto Orientale in Roma. Questo Ateneo ha voluto pubblicare con le proprie edizioni Orientalia Christiana in coedizione con Valore Italiano Editore la considerevole opera in 4 tomi che abbiamo davanti a noi. Essa vede la luce nella lieta concomitanza del centenario della fondazione dello stesso Pontificio Istituto Orientale, voluto dal Papa Benedetto XV nel 1917 con il motto proprio Orientis Cattolici. Il padre Miguel Arans, della Compagnia di Gesù, primo relatore della tesi dottorale di Don Di Donà all'Istituto Orientale, tesi dalla quale ebbe inizio e fondamento la pubblicazione che oggi viene presentata, fu, come è noto a tutti, chiarissimo professore di liturgia bizantina per oltre 30 anni presso lo stesso Istituto Orientale e in molte altre università pontificie, nonché presso l'Accademia Teologica Ortodossa di San Pietroburgo. A lui va ora il nostro venerando ricordo per essere stato uno dei maggiori studiosi al mondo delle fonti e manoscritti liturgici della più autentica tradizione bizantina, stimato e apprezzato studioso presso gli istituti di liturgia di tutto il mondo e con uno spirito autenticamente evangelico, prezioso collaboratore della profetica in difesa attività ecumenica del Beato Papa Paolo VI e della ruola presidente della Pontificia Commissione per la Russia, poi il mirabile Cardinale Segretario di Stato Agostino Casaroli. Padre Arans continuò il suo silenzioso ma preziosissimo lavoro di sostegno e di promozione dell'unità dei cristiani, specialmente verso la Chiesa Ortodossa Russa, anche durante il pontificato di Giovanni Paolo I. In una intervista del 2006 rilasciata da padre Arans alla rivista 30 giorni, il gesuita raccontò del famoso incontro tra Papa Albino Luciani con l'allora metropolita ortodossa di San Pietroburgo, Nicodim, numero 2 della Chiesa Ortodossa Russa, avvenuta il 5 settembre 1978. Cito una significativa parte di quell'intervista fatta al padre Arans. presente durante quel storico incontro. È un po' lungo, ma vale la pena ascoltarlo. Senza proclami, il ruolo del successore di Pietro veniva allora riconosciuto nei fatti dai vescovi d'Oriente. I loro viaggi a Roma erano vere visite ad limina Petri. I regimi li pressavano e loro venivano dal Papa con la fiducia di figli di una chiesa sorella. Forse il legame del successore di Pietro con i cristiani di quelle terre avrebbe trovato la sua via per affermarsi. Forse era tutta una illusione, ma il ritorno all'unità in certi momenti sembrava così facile. Nicodim era venuto a Roma per le esequie di Papa Paolo VI. Dopo l'elezione del nuovo Papa, il metropolita Nicodim chiese un'udienza fuori del protocollo, approfittando dell'incontro con le delegazioni, e insistette molto con Casaroli per avere questa possibilità. La conferma di poter parlare con il Papa, Nicodim l'ebbe il giorno dopo l'intronizzazione dei Luciani, il giorno 4 settembre, lunedì. Il giorno dell'udienza, Giovanni Papa Paolo I, entrando, andò subito incontro al metropolita sorridendo. Lo salutò con molta cordialità. Nicodim porse al capo della Chiesa Cattolica Romana i cordiali saluti da parte del patriarca di Mosca Pimen, del Sinodo e di tutta la Chiesa ortodossa russa, augurando al nuovo Papa molti anni di pontificato. Gli espresse la grande speranza che i rapporti fraterni fra le due chiese, iniziati così bene nel tempo del pontificato di Giovanni XXIII e continuati con Papa Paolo VI, potessero proseguire verso una sempre più profonda comprensione reciproca per la comune opera delle due chiese in favore della pace. Il Papa lo ringraziò per i saluti e gli auguri e chiese al metropolita di trasmettere da parte sua al patriarca Pimen gli auguri di un lavoro fruttuoso per il bene della Chiesa ortodossa russa. Gli disse che aveva sempre seguito con grande interesse la sua attività ecumenica, espresse anche il desiderio che questa opera venisse continuata. Dopo queste parole si sedettero per un colloquio riservato. Di questo colloquio non si può dire niente, è un segreto. Ma le sue parole venivano da un sentimento di totale fiducia, come si va da un padre. Ricordo che parlava a bassa voce a Papa Luciani e in certi momenti, anzi, abbassava ancora di più il tono, come per proteggersi da orecchi indiscreti. Voleva che nessuno ascoltasse. Terminato il colloquio, fu invitato a entrare l'archimandrita Lev. Nicodemo lo presentò al Papa, disse al Santo Padre che lei studiava a Roma alla Gregoriana e che parlava italiano. Il Papa allora, stando in piedi, cominciò con l'archimandrita una conversazione riguardo ai suoi studi. Anche Nicodim rimase in piedi accanto a lui. A un certo punto, quando la conversazione con Lev era ormai giunta a conclusione, Nicodim, senza dire niente, si sedette. E nel sedersi si chinò in avanti in modo composto, elegante, con un grande inchino. Tanto che lì per lì mi meravigliai, sapendo quando lui fosse rispettoso del protocollo. Pensai a un gesto di ossequio. Si accacciò ai piedi del Papa. Cercammo di risollevarlo. Anche il Papa si piegò su di lui cercando di sostenerlo. In quel convulso momento, Papa Luciani non si rese subito conto di cosa stesse succedendo. Gli dissi che soffriva di cuore, mentre l'archimandrita Lev, che era corso fuori a prendere la valigetta delle medicine, tentò di praticargli un'iniezione di cardiotonico senza risultato. Gli occhi di Nicodim erano rimasti un po' aperti. Mormorai allora al Santo Padre: gli dia la soluzione. Il Papa si inginocchiò e in latino gli impartì la soluzione. Il medico, entrato poco dopo, non poté fare altro che constatare la morte di Nicodim. Padre Arens fu dunque un indifeso promotore dell'unità della Chiesa attraverso la via della reciproca e profonda conoscenza dei testi della liturgia cristiana di Oriente e di Occidente. E con la promozione di borse di studio per presbiteri ortodossi che potessero studiare a Roma. Nel ricordarlo anche come docente, il padre Arens accompagnò come primo relatore il lavoro dottorale del professore di Donna sui penitenziali d'Oriente ed Occidente. Da qui, come dicevamo, nacque questa sostanziosa pubblicazione. Lo stesso padre Arens ebbe a dire, come si trova scritto nel verbale del suo giudizio di direttore della tesi: in 30 anni e passa di insegnamento e di direzione di tesi in questo istituto, mai ci eravamo trovati davanti una tesi di tale complessità e ricchezza, in cui tutto per noi era nuovo o quasi. Il difendente ha superato i limiti largamente di quello che si chiede solitamente ad una tesi di dottorato. Ha così prodotto un strumento di lavoro della più grande utilità, degno di figurare nelle sale di consulta delle nostre biblioteche ecclesiastiche, e degno dunque di ottenere il titolo di dottore in scienze ecclesiastiche orientali e di essere pubblicato integralmente. Vogliamo solo sperare che si trovi un sponsor meritevole dell'onore di questa pubblicazione. Era il 23 febbraio 2004. Oggi, dopo una lunga opera di revisione, di ampliamento e di stesura, secondo quelli che potremmo definire i parametri necessari per la stesura di un effettivo lexicon della penitenza tariffata, possediamo un strumento integralmente in lingua latina che si fa eccezione per la parte introduttoria del primo tomo, con il quale essere introdotti alla conoscenza di un importante e secolare prassi della Chiesa del primo Medioevo, la penitenza tariffata, disciplinata dai libri penitenziali detti in Oriente canonaria. Per gli antichi slavi, zapovedi. La penitenza nella vita della Chiesa, l'articolata vicenda storica. L'Antico Testamento mostra in moltissimi luoghi biblici il senso profondamente religioso della penitenza, con la quale l'uomo può ritornare a Dio con tutto il cuore. Nel corso della vita pubblica raccontataci nei Vangeli, Gesù Cristo fece risuonare forte l'ammonizione: il regno di Dio è vicino, convertitevi e credete nel Vangelo. In queste parole è come raccolto il senso pieno di tutta la vita cristiana. Qui si può accedere soltanto mediante la metanoia, conversione per penitenza, cioè attraverso quell'intimo e totale cambiamento e rinnovamento di tutto l'uomo, di tutto il suo sentire, giudicare e disporre, che si attua in lui alla luce della santità e la carità di Dio, che nel Figlio a noi si sono manifestate e si sono comunicate con pienezza. Ciò significa che la penitenza è uno strumento fondamentale di cui il cristiano dispone per ritornare a Dio con tutto il cuore, con tutta la mente, con tutte le forze. Il cristiano fa anzitutto penitenza nell'attuazione del comandamento di Gesù di pregare, di praticare il digiuno e le opere di carità. Il cristiano può così unirsi ai patimenti di Cristo, rinnegando se stesso e prendendo la propria croce. Può compiere gesti e dire parole di rinnovamento del cuore. Può praticare l'ascesi corporale con la mortificazione, il digiuno, l'astinenza. Per coloro che sono caduti nel peccato, la penitenza è diventata quel sacramento dal quale i cristiani ricevono dalla misericordia di Dio il perdono delle offese fatte a Lui e insieme si riconciliano con la Chiesa, alla quale hanno inflitto una ferita con il peccato e che coopera alla loro conversione con la carità, con l'esempio e con la preghiera. La storia della penitenza e dei riti che l'accompagnano è forse presa della sua totalità bimillenaria. una delle pagine più articolate della storia del cristianesimo, quella che in maniera più vistosa ha conosciuto slanci e reflussi, con fasi di grande rilievo pastorale e fasi come quella attuale di grande distacco e indifferenza. Il Concilio Vaticano II, infatti, con la Concessione Sacrosanctum Concilium al numero 62, disse e operò un ripensamento della messa celebrativa del sacramento della penitenza fino all'entrata in vigore dell'ordo penitenziae promulgato nel 73 dal Papa Paolo VI. L'uso tuttora molto in voga di definire la penitenza con l'espressione italiana confessione ci dice come, nonostante il ripensamento conciliare di una visione più ampia e più biblica dell'opera di Dio, la prospettiva sia ancora troppo limitata al solo riconoscimento delle colpe da confessare. Di contro, l'altra espressione riconciliazione, anche essa molto in voga nel linguaggio ecclesiale, valorizzando il frutto più pieno della grazia sacramentale, e cioè la riconciliatio cum Deo e cum fratribus ecclesia, rischia di non esprimere adeguatamente la previa necessità della conversione personale e del ritorno a Dio, senza la quale Dio stesso, come il Padre misericordioso del Figlio prodigo, non può che scegliere di attendere l'atto libero del ritorno a casa di colui che se ne è andato liberamente. La teologia che aveva preparato la riforma conciliare della penitenza operò, come sappiamo, la riscoperta di alcuni elementi fondamentali di notevole importanza che è necessario ripercorrere. Gli studi sulla penitenza di Pierre Marigi, Louis Ligier, Karl Rahner, Yves Congar, di Soltan Alzeghi, solo per citare alcuni noti teologi, recuperarono nella riflessione teologica il potere affidato da Cristo alla Chiesa di legare e di sciogliere, volendo con questo affermare come fin dall'antichità il peccatore, per l'intervento della Chiesa, venisse messo a parte della vita sacramentale, ponendosi in attesa della sua conversione. Questo perché il peccato, oltre a recare offesa all'amore di Dio, decrementa la vita di tutto il corpo mistico. In questo senso, allora, la penitenza è da concepire come un evento che coinvolge la Chiesa intera. Già nella fase antica della penitenza patristica, detta anche canonica o pubblica, e successivamente anche alla fase primo-medievale della penitenza tarifata, detta anche auricolare o privata, l'esercizio delle penitenze da compiere dopo aver confessato il proprio peccato, che comunque restava segreto nell'accusa, veniva eseguito in modo pubblico, diremmo ecclesiale. così come ecclesiale era la dimensione della soluzione impartita ammettendo nuovamente il peccatore all'Eucaristia, dopo che l'absolutio, lo scioglimento del legame, rintroduceva il peccatore che aveva eseguito e concluso la penitenza alla vita ecclesiale, riammettendolo alla comunione eucaristica. In tale senso, la mediazione ecclesiale appare come la condizione sine qua non per la quale ogni uomo caduto nel peccato possa essere riammesso alla comunione con Dio e con i fratelli attraverso la mediazione della Chiesa stessa. Almeno fino al VI secolo, la domanda molto seria che si poneva nella Chiesa era: un battezzato che è giunto alla fede dopo il suo catecumenato, si commette una colpa grave dopo il battesimo, può essere perdonato una seconda volta? Non senza un forte travaglio, la Chiesa individuò una via eccezionale, detta dai padri seconda tabula salutis, grazie alla quale, attraverso un itinerario penitenziale, i peccati più gravi commessi da un battezzato e individuati nei tria delicta graviora, cioè l'apostasia, l'omicidio, l'adulterio, fornicazione, potevano essere rimessi, sciolti, slegati. L'actio penitentialis era così articolata. Primo passo, l'ingresso nell'ordine penitentium, che avveniva con una confessione fatta al vescovo. L'assunzione delle vesti penitenziali e alcuni atteggiamenti del corpo da avere durante il tempo penitenziale nell'assemblea liturgica. Secondo passo, l'esercizio dell'opera penitenziale che il peccatore compiva lungo un certo numero di anni, paragonabili a un rinnovato tempo catecumenale con varie fasi e tappe. Quarto passo, la reconciliatio cum Deo e cum Ecclesia, che avveniva solennemente al termine del tempo penitenziale attraverso il gesto episcopale dell'imposizione delle mani, accompagnato dalla preghiera dell'assemblea liturgica. È chiaro che questo genere di itinerario, lungo e gravoso dal punto di vista penitenziale, era unico nella vita, una sorta di seconda possibilità, una seconda metanoia, un secondo battesimo, un battesimo laborioso, secondo tavola della salvezza, dopo la prima ricevuta nel battesimo. La prassi della penitenza canonica antica, essendo molto ardua e prolungata nel tempo, sembrò poco a poco impraticabile. Lunghi anni di penitenza, abusi nella applicazione delle penitenze, slittamento della dimensione penitenziale a quella penale, resero questa prassi bisognosa di revisione. Molti cristiani, caduti nel peccato, temendo l'accumulazione degli anni di penitenza, preferivano rimandarla alla fine della vita, absolutio in articolo mortis, avendo come conseguenza di tale scelta l'esclusione dell'Eucaristia per tutta la vita. Giunti a questo punto della riflessione storico-teologica, notiamo come la riscoperta della dimensione ecclesiale della penitenza, frutto dell'esperienza antica della penitenza canonica, ebbe certamente il merito di precisare come la vita della Chiesa è continuamente chiamata a una rinnovata penitenza, dimensione certamente anacquata nella nostra epoca. Si resta vero che nell'antichità la confessione di una colpa commessa restava un segreto tra penitente e confessore. La liturgia penitenziale, tuttavia, veniva celebrata in forma pubblica. Con un profondissimo senso della partecipazione di tutta la Chiesa alla conversione, all'aiuto fraterno al peccatore, alla preghiera per lui, con gesti rituali esterni che vedevano coinvolta l'intera assemblea ecclesiale. Il peccato, è bene ricordarlo, non è un evento racchiuso solo nella relazione uomo-Dio. Così come la lotta al peccato non è lasciata alla battaglia del singolo cristiano. Tutta la Chiesa pregava con i peccatori, intercedeva per loro, li accompagnava in quell'itinerario che dalla excommunicatio, sospensione della comunione eucaristica, all'iscrizione all'ordo penitentium, conduceva fino alla comunio eucaristica che si otteneva nuovamente dopo l'assoluzione. Questa, per la cronaca, veniva data a Roma o a Milano il Giovedì Santo, nella Missa Penitentium, prima la Messa Chrismatis, e in Spagna il Venerdì Santo. Questo itinerario liturgico ecclesiale vedeva i penitenti stare anzitutto flentes alle porte della Chiesa, implorando fino alle lacrime la preghiera dei fratelli. Successivamente audientes, cioè presenti alla celebrazione dell'Eucaristia, fino alla liturgia della parola. Quindi genuflexi, partecipando all'Eucaristia fino al termine, ma senza comunicarsi e in ginocchio. Da ultimo, come consistentes, partecipando all'Eucaristia fino al suo termine, ma senza comunicarsi e restando stantes, in piedi. Ne emerge una prassi penitenziale che ha come dinamica interna una sorta di intenso desiderio eucaristico, accompagnato dai gesti rituali e dalla preghiera della Chiesa tutta, secondo un itinerario ben preciso e senza facili riduzionismi. Solo alla fine di un preciso itinerario spirituale, il peccatore ricevuta l'imposizione delle mani da parte del Vescovo, celebra e riceve il perdono di Dio e la riconciliazione con la Chiesa, con l'invocato ritorno alla comunione eucaristica. Resta forte l'interrogativo sulla rigorosità della Chiesa fino al V secolo, chiedeva ai peccatori, resta forte l'interrogativo sulla rigorosità che la Chiesa fino al V secolo chiedeva ai peccatori, imponendo una satisfazio, per dirla con gli scolastici, cioè un rigoroso esercizio di penitenza richiesta al peccatore. Da una parte era forte il dovere di essere discepoli convinti e fedeli a Cristo e al suo Vangelo. Il peccato doveva essere dichiarato contrario a Cristo. Il battesimo doveva manifestare la convinzione della sequela e i peccatori avevano il dovere di mostrarsi realmente pentiti dai loro peccati. Dall'altra parte, la Chiesa antica sentiva la necessità di mostrare verso il peccatore l'atteggiamento misericordioso di Dio, del quale la Chiesa stessa è segno, ponendosi come mediatrice della grazia e facendosi vicina alla nativa fragilità umana. La dimensione ecclesiale della penitenza, così fortemente declinata dalla severa prassi della penitenza canonica dei primi 6 secoli della Chiesa, ebbe in una fase successiva una diversa sottolineatura rivolta più alla dimensione personale e individuale della penitenza. Assieme, cioè, alla dimensione ecclesiale cominciò a delinearsi la necessità di riflettere sull'altrettanto necessaria conversio scordis, opera di ogni singolo credente, di ogni individuo, e che non può essere demandata ad altri. Nacque così un alveo fecondissimo di riflessione teologica e pastorale attorno ai cosiddetti atti del penitente, che, per dirla con il linguaggio scolastico, sono la sacramenti materia, la materia del sacramento. Parlare degli atti del penitente significa guardare alla penitenza non come ad un processo giuridico, meccanico, fatto di passi automatici, tali per cui eseguita la penitenza, essa sortisce l'effetto del perdono. Al peccatore invece è chiesto di mettere in gioco se stesso, fino in fondo, con un atto personale di esame delle azioni peccaminose commesse, della sua conversione e compunzione del cuore, dei suoi propositi di abbandonare il male per porsi nuovamente alla sequela di Cristo, della sua volontà di riparare al male commesso, un male che si estende anche fuori di sé. Questa attenzione agli atti del penitente dice come il peccato e la conversione avvengano dentro la storia attraverso un itinerario della persona che ha bisogno di tempo, di verifica, di ascolto della parola di Dio, di preghiera, di intimità con il Signore, di rinnovamento interiore, di distacco, potremmo dire anche psicologico, dalle lusinghe del male, la conversione non è frutto di una sentenza o di una risoluzione repentina. Questa sottolineatura della dimensione personale, che nella storia della Chiesa è stata a volte contrapposta alla dimensione ecclesiale della penitenza, vuole essere il segno che la Chiesa ha bisogno di responsabilità nei confronti del Vangelo e di persone che autenticamente si convertono al Signore. La tendenza a ridurre la penitenza solo a una dimensione ecclesiale e sociale ha più volte spinto la Chiesa verso derive azzardate. Questo sia in epoca a noi lontane, come il secondo Medioevo, dopo l'introduzione della penitenza tarifata e alcuni abusi che ne derivano, come ad esempio quello di affidare a qualcuno la propria penitenza, la prassi delle commutaciones, affinché dietro pagamento la assolvesse al posto del peccatore, o altri abusi diffusi sì molto in epoca recente, negli anni 70 del Novecento, come le cosiddette assoluzioni collettive o l'eliminazione dell'integrità dell'accusa dei peccati, una sorta di generica accusa della propria condizione di peccatore, prassi divulgate in pseudo-sussidi pastorali di quella epoca, realtà contro cui reagì fortemente il magistero di Papa Paolo VI, che parlò di una apologia della confessione individuale e auricolare, e di Papa Giovanni Paolo II, che nella Redemptor Hominis ebbe a dire che la conversione è un atto interiore di una profondità particolare in cui l'uomo non può farsi rimpiazzare dalla comunità. La Chiesa, continua il Pontefice, difende il diritto particolare dell'anima umana a un più personale incontro dell'uomo con Cristo crocifisso che perdona. Diventa necessario a questo punto comprendere più profondamente cosa sia avvenuto nella storia della Chiesa con il passaggio del VI secolo. La severità della penitenza canonica antica generò, come già abbiamo avuto modo di dire, una sorta di impasse all'interno della Chiesa in ragione delle gravose penitenze imposte ai fedeli penitenti. Dall'altra parte, la forte diffusione del cristianesimo stava rendendo i paesi dell'Europa praticamente cristiani, e il nuovo imperium, sorto sulle ceneri di quello romanum, si era costituito anche per l'intervento di Costantino, come impero culturalmente, socialmente e forse anche politicamente cristiano. Le conseguenze di ciò furono la sparizione progressiva dell'iniziazione cristiana degli adulti, sostituita dal solo pedobattesimo, poiché non c'erano più adulti da battezzare. Era abbastanza normale che i membri della Chiesa nati in regime di cristianità cominciassero a allentare la radicalità evangelica degli inizi. La fede qui si aderiva entro un contesto favorevole risultava però meno personale, meno radicale, meno determinata, più soggetta alla fragilità, all'apostasia e al peccato in genere. I fedeli caduti in peccato dopo il battesimo non si accostavano pertanto né al sacramento della penitenza, troppo esigente nelle sue forme canonico-penitenziali, rinviandolo a fine vita, né a quella dell'Eucaristia, vietato dallo stato di peccato in cui si trovavano. La difficile situazione pastorale che incominciò a crearsi, qui la Chiesa non aveva ancora dato risposta perché si potesse uscire dall'impasse, fu assunta dai monaci irlandesi che pensarono ad introdurre una nuova prassi pastorale penitenziale per i peccatori. Nascerà la cosiddetta penitenza tarifata, oggetto di studio di Canones Penitenciales, lavoro del professore Di Donà, che oggi vede la sua pubblicazione. La prassi della penitenza tarifata, ideata e applicata dai monaci di San Colombano e dal monachesimo francese, tedesco, svizzero e Nord Italia a partire del VI secolo, sposterà la questione penitenziale e le pratiche conseguenti a un altro livello. Si tratta di una confessione privata dei propri peccati, fatta in modo auricolare a un monaco, anche se non sacerdote. Questi assumeva il ruolo di padre spirituale, qui si confessavano i peccati personali, umiliandosi, si parlava di rubor, di russore, della vergogna di confessare i peccati come prima medicina dell'anima dinanzi a lui. Con questa confessione non si poneva più in uno status pubblico di peccatore. Chi ha ricevuto e sta compiendo una penitenza pubblica. Il monaco, infatti, imponeva la penitenza secondo delle tariffe determinate con precisione dai libri penitenziales e le penitenze venivano eseguite dai peccatori, i quali al termine del tempo stabilito ricevevano l'assoluzione da un ministro ordinato. Un po' alla volta, la prassi della penitenza tarifata introdusse la possibilità di reiterare l'assoluzione, uscendo dalla prassi dell'unica penitenza dopo il battesimo. Inoltre, cosa allora inaudita, si estendeva la possibilità della penitenza anche ai clerici, diaconi, presbiteri e vescovi, che non erano mai stati ammessi alla penitenza prima d'ora. Dopo un tempo di opposizione a tale prassi, anche la gerarchia cominciò a guardare di buon occhio la penitenza tarifata, che affrancava la penitenza canonica dalle secche dell'impossibilità di assumere le severe pratiche penitenziali previste. E questo nonostante i teologi carolingi volessero inizialmente mantenere la duplice prassi, la penitenza canonica per i peccatori per peccati notori e la penitenza tarifata per i peccati occulti. Questo tentativo risultò assolutamente inutile. La penitenza tarifata prese il posto di quella canonica, ammettendo la reiterazione della assoluzione e prevedendo delle penitenze certamente meno gravose di quelle dell'epoca patristica, seppure ancora molto severe secondo la nostra sensibilità di oggi. Non va dimenticato comunque che nel sistema introdotto dai monaci irlandesi si stava notevolmente alleggerendo la pratica penitenziale antica con delle autentici tali, delle radicali riduzioni, fino a dimezzare, potremmo dire, a mensire le penitenze antiche previste per i peccatori. Con l'approssimarsi della teologia scolastica, la soluzione comincerà a perdere il suo ruolo di compimento dell'itinerario penitenziale e assumerà maggiormente la valenza di sentenza giudiziale, che poteva essere emessa anche immediatamente dopo l'accusa dei peccati, per rimandare a un secondo momento la satisfactio, cioè l'esercizio dell'opera penitenziale. La penitenza individuale, detta anche privata, fu molto attenta alla disamina di un processo interiore e spirituale, esame di coscienza, contrizio, perfetta o imperfetta, per l'offesa recata all'amore di Dio, confessio di tutti i singoli peccati al ministro ordinato in sacris legittimo, gli atti del penitente, appena descritti, esprimono maggiormente la dimensione soggettiva, ma vanno sottoposti alla dimensione oggettiva, in qualche modo ecclesiale, del potere conferito da Cristo a Pietro e con lui agli Apostoli e alla Chiesa, di legare e di sciogliere i peccati degli uomini. Seguono agli atti del penitente gli atti della Chiesa con il penitente. Si tratta dell'assoluzione con cui viene manifestata la misericordia di Dio e la satisfactio che la Chiesa impone al peccatore che, seppure già assolto, resta vincolato dal dovere morale di compiere tale opus penitentiae. Sono interessanti a questo riguardo i tentativi di mettere insieme la dimensione personale e dimensione ecclesiale della penitenza, operati ad esempio da Abelardo nel suo rifiuto di formalismo e legalismo, non è l'agire esterno da solo, ma l'intenzione del cuore che qualifica ciò che è bene o male. L'atto è buono e cattivo in virtù dell'intenzione che lo determina. Di qui l'importanza per il teologo medievale della contrizione rispetto alla soluzione per il peccato commesso. La prima riguarda il cuore e si ottiene il perdono di Dio. La seconda è una confessione alla Chiesa che va fatta ma senza automatismi e senza che la soddisfazione venga intesa come una punizione. Per Abelardo la contrizione del cuore opera la scomparsa del peccato e il concesso al male, attribuendo alla carità divina di ispirare questo gemito d'amore a Dio, inconciliabile con il peccato stesso. Ugo di San Vittore, da parte sua, in dialettica con Abelardo, riconoscendo che indubbiamente la grazia di Dio libera l'uomo contrito dall'oscurità procurata dal peccato, afferma che il potere delle chiavi affidato da Cristo alla Chiesa dona al peccatore, per mezzo della soluzione del sacerdote, la liberazione della pena che impone il peccato. Vorrei adesso trattare le molteplici vie penitenziali sguardo teologia pastorale. Lo sguardo sull'articolato storia della penitenza nella vita della Chiesa ci permette di riconoscere all'interno di questo itinerario una continua tensione tra l'accento dato alla Chiesa, che per virtù del potere delle chiavi dona la grazia che salva il peccatore dopo averlo emendato con la penitenza, e l'accento dato al singolo che dall'altra parte, rientrato in se stesso, comprende il suo peccato e ne prende la distanza con la contrizione del cuore. Oggi sembra che la crisi del sacramento della penitenza, gridata al numero 28 dell'esortazione apostolica Reconciliatio e Penitentia del Papa San Giovanni Paolo II, indichi non tanto uno spilacciamento verso la dimensione ecclesiale del peccato e delle sue penitenze, oppure verso gli atteggiamenti interiori del peccato, del peccatore, il suo autentico desiderio di rinnovamento. La crisi di cui riferiscono le parole di Giovanni Paolo II, con la espressione del numero 18 della Reconciliatio e Penitentia, sono queste. Oggi, secondo Giovanni Paolo II, la perdita del senso del peccato è così grave, e citando il suo predecessore Papa Pio XII, dice che il peccato del secolo è la perdita del senso del peccato. La coscienza omnibulata, la perdita del senso di Dio, lo smarrimento del senso del peccato sono alcune delle cause che sono confluite ad abbandonare la necessità della penitenza per la vita della Chiesa. Proviamo di riflettere su di esse per tracciare qualche via di rinnovamento. E Papa vorrei sottolineare soprattutto la penitenza come conversione della persona. Risulta necessario riascoltare l'appello di Cristo alla conversione che Egli rivolge al cuore della persona umana. Abbiamo già citato all'inizio: convertitevi e credete al Vangelo. La seconda parte che insiste, su cui insiste il Papa, è che la penitenza è anche una luce che illumina. Tutta la storia della salvezza ha inizio con una sinfonia della luce. Dio disse: sia la luce, e la luce fu. Essa è la prima azione del Creatore, che in qualche modo corrisponde all'ultima azione della nuova creazione, l'irruzione del Verbo nella storia, quando, nella pienezza dei tempi e nei compiersi della rivelazione, Cristo attribuisce a se stesso la vera natura della luce. Io sono la luce del mondo. Per questo noi sappiamo di vivere in questa luce, perché chi ama suo fratello dimora nella luce. Dio è luce e in Lui non ci sono tenebre. Se diciamo che siamo in comunione con Lui e camminiamo nelle tenebre, mentiamo e non mettiamo in pratica la verità. Ma se camminiamo nella luce, come Egli è nella luce, siamo in comunione gli uni con gli altri, e il sangue di Gesù, suo Figlio, si purificherà da ogni peccato. La penitenza anche annuncia la parola di Dio. Nonostante la riforma operata dal Concilio Vaticano II del rito della penitenza, è sempre molto raro che si usino i testi della Sacra Scrittura nella celebrazione individuale della penitenza, ed è molto diffuso usarli con grande abbondanza, forse troppa, nella forma ecclesiale di questo sacramento. E infine, la penitenza è riconciliazione con Dio e con la Chiesa. Ne abbiamo già parlato all'inizio. La lezione ricevuta dalla storia della penitenza cristiana ci pone di fronte a un altalenante prevalenza ora del potere delle chiavi, fondamento dell'autorità della Chiesa di legare e di sciogliere i peccati. Ora, entrambe la sottolineatura sono importanti per la via della Chiesa e rivelano due dimensioni essenziali della penitenza: il fatto cioè che essa sia dono della grazia ricevuta dall'alto, i suoi processi interiori di maturazione del senso del peccato e la misericordia divina appartiene anche a una sfera più intima e silenziosa. Abbiamo cercato di curare molto l'analisi degli atti di penitente, abbiamo il potere di legare e di sciogliere, ma siamo carenti rispetto alle attuali prassi penitenziali. E dopo l'ipertrofia degli atti del penitente, individuati dalla teologia scolastica e giunti fino al Tridentino, la confessione dei peccati e la sentenza di assoluzione sono stati ravvicinati, messi in successione uno dopo l'altro. La Chiesa affida in secondo tempo al penitente la soddisfazione, cioè l'obbligo morale di ripagare il male commesso e di compiere quell'atto di carità. Non possiamo dimenticare, concludendo, la necessità di formazione nei bambini, nei giovani, nei adulti, la celebrazione frequente con il sacramento della penitenza, le celebrazioni penitenziali previste dall'ordo penitenziae, con celebrazione della parola di Dio e la possibilità di esercitare la penitenza richieste di perdono, la necessità di collegare la soddisfazione le opere della carità, specialmente verso i più poveri. Anche per la virtù di queste nostre riflessioni e degli studi sulla penitenza, chiediamo al Signore di soccorrerci, perché sappiamo con certezza che Dio dimostra il suo amore verso di noi nel fatto che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. A maggior ragione, ora, giustificati dal suo sangue, saremo salvati dall'ira per mezzo di Lui. Sì, infatti, quando eravamo nemici, siamo stati riconciliati con Dio per mezzo della morte del Figlio Suo. Molto più, ora che siamo riconciliati, saremo salvati mediante la Sua vita. Non solo, ma ci gloriamo pure in Dio per mezzo di Gesù Cristo, grazie al quale ora abbiamo ricevuto la riconciliazione. Nel sacramento della penitenza, Egli ci dona la Sua misericordia, il perdono delle offese che gli abbiamo arrecato, ci riconcilia con la Chiesa, ferita dal nostro peccato, e con la carità, l'esempio e la preghiera ci spinge a cooperare alla conversione nostra e del mondo intero a Lui, unico Salvatore del mondo. Grazie. Giorni della Chiesa. E questo era l'intervento, la Lectio Magistralis del Cardinale Robert Sara, prefetto della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, sul tema La penitenza nella vita della Chiesa, prospettiva teologico-pastorale, incontro che si è svolto in una affollata aula magna della Facoltà Teologica del Triveneto, che ha organizzato l'incontro nell'ambito del ciclo di presentazioni di libri. Nello specifico, il testo a cui si è fatto riferimento è quello curato da Don Gian Andrea di Don, Canones Penitentiales. I canoni, ricordiamo, i libri penitenziali erano dei veri e propri tarifari per i confessori nati nel Medioevo, utilizzati almeno fino al Concilio di Trento come strumento per determinare la penitenza rispetto ai peccati compiuti, declinati secondo le circostanze. E questi codici hanno avuto forte rilievo sia nello sviluppo del diritto penale canonico sia in quello secolare. Ringraziamo la Facoltà Teologica del Triveneto. Il video integrale anche con gli altri interventi di premessa e di saluto è a disposizione sul nostro canale YouTube. È di Dalci Regia, Mirko Cavallini in studio. A voi tutti buon ascolto. I giorni della Chiesa. Eventi e incontri della Diocesi di Padova.